dove in questo momento c'è una mobilitazione. Pronto? Pronto? Sì, pronto, ci senti? Sì, vi sento. Che sta succedendo? Buongiorno. Buongiorno. Allora, sta succedendo che i dipendenti della Ground Care, che è una società che fa handling, carico e scarico bagagli, sono sul piede di guerra, perché una società che era in concordato preventivo di continuità da circa un anno è stata dichiarata fallita qualche giorno fa, e di conseguenza adesso ci troviamo praticamente in una situazione assolutamente anomala, con i stipendi del mese, la quattordicesima, che non sono garantiti, e mentre invece dovremmo garantire il servizio per il periodo in cui il curatore fallimentare è insediato e svolgerà, diciamo, le pratiche burocratiche per la liquidazione dell'azienda. Quindi, insomma, prima un altro compagno, insomma, ci aveva avvertito che c'era anche la Roma Fiumicino bloccata dai lavoratori. Sì, è stata bloccata praticamente anche l'accesso ai terminal, bloccata la strada a Troio davanti al terminal, dopodiché dopo aver creato un po' di disagio è arrivata una convocazione in prefettura nelle prossime ore. E in questo momento la mobilitazione continua? In questo momento l'assemblea è diciamo momentaneamente finita, perché la prima assemblea terminava alle ore 12, quindi poi eventualmente riprenderà oggi pomeriggio con la seconda assemblea, e aspettiamo notizie dalla prefettura, insomma, anche perché trattandosi di pubblico servizio è naturale andare incontro anche al precettamento. Per ora ci sono anticipazioni, cioè si parla appunto di precettare i lavoratori che stanno protestando? Ho parlato con i delegati sindacali, sembra che sia arrivata una prima lettera si è arrivata una prima lettera, però praticamente credo che l'intenzione sia quella di andare dal prefetto, perché ci sono alcune anomalie, e giustamente dal prefetto far capire che come il lavoratore deve rispettare le regole, anche il padrone deve rispettare le regole a fronte di una garanzia di effettuare il servizio, dovrebbe esserci quantomeno anche la garanzia del pagamento dei stipendi come condizione per continuare per riprendere il lavoro. Senti, in questi giorni della trattativa, insomma, intorno all'Italia, che quindi, insomma, ha ripercussioni importanti poi su tutto il lavoro dell'aeroporto, sui giornali non c'è stato molto spazio, ne ha parlato soprattutto il Messaggero, ma parlando, diciamo, dalla parte degli imprenditori di Alitalia, certo, e di Etihad, insomma, se vuoi darci tu una valutazione generale su, certo, quello che sta succedendo. La valutazione generale, credo che ci sia una sorta di omertà, soprattutto per quanto concerne aeroporti di Roma e il ruolo di gestore aeroportuale di aeroporti di Roma, in quanto essendo anche un grosso gruppo capitalistico, sicuramente ha anche delle partecipazioni in alcune società di editoria, e in qualche maniera c'ha un controllo, però può fare pressione più o meno sui giornali più importanti, insomma. È successo che già altre volte portammo dei giornalisti a fare dei servizi anni passati, e i giornalisti ammettevano che c'erano difficoltà a far uscire questi servizi, che venivano ogni volta e parlavano delle responsabilità di aeroporti di Roma, usciva fuori che l'editore diceva no, ci sono stati altre priorità, il tuo articolo lo stampiamo in giorni successivi, e non usciva mai. Questa è la situazione alla luce dei fatti. La riprova è il fatto che, nonostante ieri sia stato bloccato per un giorno e praticamente chiuso lo scalo di Ciampino, ben poche ben poche agenzie hanno dato la notizia, insomma. Sì, in effetti confermiamo che praticamente non si legge quasi da nessuna parte. Sì, infatti quello è sempre stato un problema, anche perché poi quando arrivava qualche giornalista e si andava a leggere l'articolo che scriveva era sempre molto, molto confuso, c'erano anche degli errori, diciamo anche anomali, perché comunque sia, più di una volta abbiamo cercato di spiegare che la nostra vicenda non era quella dell'Italia, era tutt'altra partita, e più di una volta si faceva confusione tra i vari argomenti, insomma. Sì, che insomma sono confusione, e purtroppo sui giornali leggiamo spesso, ma in questo caso probabilmente c'è anche proprio una volontà di disinformazione. Certo. E senti, quindi niente, ora siamo in attesa appunto di questo incontro in prefettura, e poi non so se ci sono altri momenti già previsti, insomma, per questa mobilitazione. Certo, perché comunque sia la lotta per mantenere il posto di lavoro, scusate, cioè, di condizioni di salute pessime, prego, ci mancherebbe. La lotta per mantenere il posto di lavoro naturalmente va avanti. Quello che si cercherà di ottenere in prefettura è almeno la sicurezza dello stipendio, perché sennò, insomma, capite da soli che continuare a lavorare per un mese in cui poi ci sono anche scadenze importanti, senza lo stipendio diventa un problema anche raggiungerlo il posto di lavoro, anche perché se viene da 3 anni di cassa integrazione in cui non è che uno abbia potuto così tanto risparmiare, insomma, fa fronte a una situazione come questa, guardando solo al portafoglio, diciamo. Certo. E senti, se non vuoi aggiungere altro, ovviamente però i microfoni di Radio Onda Rossa rimangono aperti, e fateci sapere gli sviluppi. Va benissimo. Noi per il momento... Prego. No, l'unica cosa su cui volevo mettere il punto è che noi a Fiumicino siamo 7 società di handling, 7 società che fanno praticamente lo stesso lavoro, e c'è una guerra al prezzo più basso che ha portato a creare questa crisi, che ormai è diventata una crisi strutturale e da cui non se ne può più uscire se non mettendo delle regole ben precise per chi opera in questo settore. E quello che oggi sta succedendo a Ground Care può scatenare un effetto domino che poi da domani comincerà a colpire anche le altre società, quindi l'appello è quello di unirsi tra tutti i lavoratori, perché non esiste più il problema della singola società, ma è diventato un problema comune di sistema. Questo penso che sia la cosa più importante. Un appello a cui ci uniamo con te, e risentiamoci presto. Va bene, grazie. Grazie a te. Dello spazio concesso. Grazie a te, ciao. Penso che un sogno parassido non volverà.